Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Il buongiorno si vede dal mattino. E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda. Buona domenica, passate a casa ad aspettare. Tanto il telefono non squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Come stai, Matteo? Bene. Stai bene? Io devo dire la verità. Tu sei venuto da me, l'altra sera mi hai scritto e mi hai detto: io ti avevo fatto una promessa sui diritti civili e vengo a parlarne da te. Buona domenica. Ho messo tutti i giornali, lo sai che Nicky Vendola è diventato papà. Gli vogliamo fare gli auguri? A questo, quando nasce un figlio è una cosa talmente bella che chi se la prende con il bambino, uno può stargli simpatico, antipatico, può condividere la scelta dell'utero in affitto. È chiaro che io, per esempio, sull'utero in affitto sono contrario. Io. Ciao domenica, passate a piangere sui libri. Tanto lo sai che non ti interroga. E poi domani che ti frega. Quando si parla di guerra, bisognerebbe andarci con i piedi in punta di piedi, con molta calma. Vedo gente che dice: ah, mandiamo 5.000 uomini. È un videogioco questo. E che continuano a giocare. Ho visto che c'è il presidente Confalieri dietro. Esatto. Mi state cercando di trovarmi un posto di lavoro per quando lascerò la politica. Ma tu sei molto più bravo di me a fare questo lavoro. Rimanete qui dopo la pubblicità e vanno a Spagna. Grazie Matteo di esserti fidato di me. Bocca al lupo! Ciao! Signore e signori, Ivana Spagna! No, l'ha detto con un po' meno di enfasi perché un po' un filino di imbarazzo per il presidente del Consiglio c'era. Dai, annunciami Ivana Spagna. Signore e signori, state con noi dopo la pubblicità, c'è Ivana Spagna! Passate ad ascoltare. Ma tra l'altro, ecco, ma che gli è successo a Ivana Spagna? Ma non l'avete vista? No, perché poi è comparsa Ivana Spagna. Ragazzi, è una roba. Ma che ha fatto 8.000 operazioni? Mamma mia, non l'avete vista? Peter Biscabè, non l'hai vista Ivana Spagna? Lorenzo Nespoli, non l'avete vista? Altro che Garco quando si è presentato a Porta a Porta. Guardavi il Milan? Ho capito bene, guardavi il Milan. Il pallone passa a Sansone, fa 2-0, l'assist di Versalico. Ah, il Milan. Il gol di Sansone, il Milan in carriera. Ciao, ciao, domenica. Ah, vabbè. Di Lemina, che si accentra. Eccolo qua. Limite, calcia col destro. Convochiamolo subito. Convochiamolo subito il nostro Marione Adinolfi. Buongiorno Marione, come stai? Ma che belli che siamo, ma che belli. Il lunedì poi, tu fai bene, tu mi devi chiamare il lunedì, che sono proprio il giorno giusto, capito? Se vuoi ti chiamo il giorno dopo Bayern Juventus. Ma tu sarai uno dell'anno. Io dopo Bayern Juventus. Quando è che è Bayern Juventus? Quando è? Il 16. Il 17 sei già invitato. Il 17. Da fare. No, anzi no, annulliamolo, che porta sfiga, amica, che passate. Poi ti invito. Il 17 no. No, Marione Adinolfi, no. No, no, non lo voglio il 17 marzo. Quante giornate è che non prendete uno straccio di misero gol? Mamma mia, che belli che siamo. Una cosa, mi pare 8 giornate consecutive. Ma soprattutto la cosa incredibile è che nelle ultime 18 partite abbiamo vinto 17 e pareggiata una. Cioè una cosa. E rubate? Una cosa, neanche una. Neanche un po' una. Di forza. Incredibile. Questo è il vero record. Rubate neanche una. Questo è il vero record. mamma mia. Barzagli, Lemina, questo è la Juve che vince con Barzagli e sì, Lemina. Sì, esatto, esatto. È come se il Milan, il Milan di Sacchi vinceva con Mussi. No, lascia perdere. Balotelli, grande giocatore, bravo. Lascia perdere. Balotelli io lo prenderei a scarpate da 3 anni. Ecco, ha scritto col, ha reppato con lui. L'inno è un si elevi l'inno del Milan, che noi siamo il Milan sempre e comunque, anche e soprattutto nelle difficoltà. 2 Mitropa Cup, ne sono molto orgoglioso. Noi cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno. Eccoci qua, no. Allora è lunedì, insieme a Mariona Di Nolfi che ora ci dovrà raccontare tutto, c'è Carla Rocchi che ritroviamo con immenso piacere, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno Rocchi, come va? Buongiorno cari, va benissimo. Qui bisognerà chiarire subito alcune cose su Roma, su Roma, sì. Sia dal punto di vista di sindaci, sia dal punto di vista di topi. Allora, dobbiamo aprire il Parlamento perché qui c'è Mariona Di Nolfi. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo. Mariona, adesso ci devi dire tutto. Allora, ti candidi a sindaco di Roma, sì o no? Sì, sono candidato a sindaco di Roma insieme a tanti amici candidati sindaco da tutte le grandi città d'Italia, anche in città piccole e medie. Un simbolo che si chiama il popolo della famiglia. Il che popolo della famiglia. Qua ci vorrebbe, ci vorrebbe Cruciani a dire è una roba pazzesca. È una roba pazzesca. Non so che Cruciani si sarebbe presa male questa cosa qua. Ma non se l'è presa male Cruciani, se l'è presa male Antonio Socci, se l'è presa male molti cattolici a dire ma che serve un partito di cattolici? Cioè, ma scusami un attimo. Tanto non diciamo nulla, non è un partito di cattolici, abbiamo tantissime persone provenienti da altre confessioni religiose e anche gli agnostici, non è un partito confessionale, figuriamoci se mai potremmo fare una cosa del genere. È un partito che ha come idea quella che la famiglia sia la questione centrale in questo momento del paese. Ho capito, ma scusa, un movimento intorno a questo. Va bene, ma diventate idea che abbiamo mobilizzato data. Ma dovete conquistare consiglieri comunali, cioè, ma che c'entra la famiglia? Cioè dovete risolvere le buche, c'entra moltissimo, diceva le tasse, i rifiuti. Se tu usi come prisma la famiglia, capisci tutti i bisogni della società ed ha perfettamente ragione. Se tu vuoi capire i bisogni della società, guarda la famiglia e lì capisci tutto quello di cui c'è bisogno. Sì, ho capito, ma che ne so. Per il bambino, per l'anziano, gli asili nido, per esempio, pensa alla battaglia anche solo per la natalità e per gli asili nido, per avere una civile condizione in questo paese per cui puoi fare un figlio e non trovarti in estrema difficoltà. Dipende dalle dimensioni delle città, dalle scelte che fanno le città in termini di investimento. Pago il concerto di Elton John o 10 asili nido è una scelta. Allora facciamo un sondaggio alla Ilvo Diamanti. Carla Rocchi, lei voterebbe a Di Nolfi? Ho votato a qualunque. Potrebbe perfino succedere. Certo, no, non in prima battuta. Magari se va al ballottaggio. Se va al ballottaggio. No, ma c'è incredibile. Mariona Di Nolfi lanciato qui dal Parlamento. Si candida. C'è il partito. Com'è che è? Il popolo della famiglia. Il popolo della famiglia. PDF. Il nostro amico del Gay Center Fabrizio Parrazzo ha detto non deve essere ammesso sulle liste elettorali. Dico solo perché? Questa è stata la dichiarazione, perché dice che è dichiaratamente omofobo. Non so se hai visto il simbolo, c'è una mamma, un papà e 2 bambini. Questo sarebbe il simbolo dichiaratamente omofobo. PDF, beh, bello, no? Quando arrivano i PDF, Carla Rocchi, no? lo ricorderai per sempre. Quando ti arriva un PDF via mail, eccolo là, il popolo della famiglia. Popolo della famiglia. Ma insomma, questo è un momento fantastico perché chiunque si può inventare, qualunque sigla, qualunque agglomerato. Guardate che la rete ha fatto miracoli, ci si aggrega su qualunque cosa. Ci si aggrega la logica non appartiene a tutto questo, ci si aggrega perché ci si aggrega. La logica non c'è più, le motivazioni vanno cercate. Insomma, è un momento così, è un momento cos'è? C'è molta, cosa diceva Mao? C'è molta confusione sotto il cielo. Sotto il cielo, e quindi un momento molto bello. Vabbè, me l'ha stroncato così, ce l'ha stroncato. No? Ma cioè... no, guarda, è una cosa interessante. Poi la sera ha scritto che questo è il grillismo cattolico. Il grillismo cattolico. La definizione di Italia Corotini, che ha fatto una conversazione con me su questo argomento. Ed è vero, insomma, la rete è un elemento che ha sicuramente modificato alcune strutture, diciamoci la verità, però dal punto di vista ideologico e dal mio punto di vista, per fortuna, le ideologie sono crollate, dunque ci si aggrega rispetto agli interessi che riguardano la vita di ciascuno di noi. No, ma è chiaro, questa è la famiglia, quello che hai portato avanti, ma chi te lo fa fare? Questa è la verità. Cioè, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, che è una fatica incredibile. Cioè, adesso proprio inizi la campagna elettorale. Inizio la campagna elettorale. Ma ti dovrò dare del lei, quindi adesso quando... La precisione è venerdì, faccio la costituente del partito al palazzetto della geografica a Roma, quindi la costituente, ho una cosa mostruosa, perché, certo, bisogna fare gli atti formali e dunque convocare un'assemblea costituente con amici che stanno arrivando da tutta Italia, che ringrazio, che lo hanno speso loro, a tutti loro di dire, ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Questa è la domanda che però ci pone da un po' di tempo, ogni volta ci ritroviamo in una piazza e ci dite, ma come mai c'è tutta questa gente, ma chi glielo fa fare? Evidentemente c'è qualcosa di interesse, insomma, no? Forse sentono che la famiglia è messa sotto attacco, forse sentono e quindi che... bisogna diventare sindaco di Roma, cioè questo è il legame che non capisco. Mi pare abbastanza determinante, guarda, forse... Diciamo, è mai come in questo momento è necessario che siano le città, i comuni a attenzione ai bisogni delle mamme, dei papà, capito? Carla Rocchi qui anche altro che ci si aggrega, perché glielo fa fare, perché è un momento decisivo, perché bisogna trascurate questa cosa, che questo di essere al centro di qualcosa, no? Le persone la mattina si svegliano e se non sono riconoscibili, e se non sono riconosciute, se qualcuno non le guarda, si sentono male. Naturalmente non parlo della situazione presente, ma è un fatto generale, le persone si aggregano su qualunque cosa per una visibilità. Però Carla Rocchi qui c'è da chiarire una questione molto chiara. Allora, le primarie di Roma le ha vinte Giachetti, mentre tra l'altro D'Alema, mamma mia come rosica, D'Alema è andato a votare e ha detto, ma vedo più giornalisti che elettori. D'Alema ha rosicato talmente, pensate come rosica. D'Alema pare, questo lo racconta il Corriere, che a una cena abbia detto, Renzi è del Mossad, bisogna sconfiggerlo. Così, testuale. Oh, ma che, come rosica D'Alema, vabbè. Non ci credo, D'Alema non è così. Effettivamente lo scrive Maria Teresa Meli, insomma, la Eda di Renzi, quindi sul Corriere. Però vabbè, allora... Ci sono i topi, Carla Rocchi. La domanda è secca, precisa. I topi di Roma si possono uccidere anche brutalmente? Ma voi lo sapete che quando in America, ancora tipo qualcosa come 30-40 anni fa, si posero lo stesso interrogativo e misero appunto una sostanza per uccidere i topi. La misero nell'ambiente e morirono solo le persone. Vabbè, hanno sbagliato. No, hanno sbagliato. Però lei, presidente dell'ENPA, ci deve dire se è legittimo per un sindaco fare una campagna per sterminare i topi. Allora, è una clamorosa stronzata. E perché? Vi dico così, la chiamiamola col nome suo. Perché? Primo, perché tutti questi miliardi di topi non ci sono, nel senso che vengono visti intorno ai cassonetti semplicemente perché l'ama ormai da secoli non fa il suo lavoro. Certo. Perché se non ci fu, non è che i topi li vedi al bar, li vedi all'edicola, li vedi andare a passeggio. Non chiedono, mi dia il Corriere della Sera. Ecco, mi dia un cornetto, mi dia il Corriere della Sera. Anzi, il Sole 24 Ore, siamo azienda listi, anche il Sole 24 Ore. Certo. Detto questo, basterebbe tener pulito, ma siccome quello che fa effetto no, è la grande campagna estemporanea, la normalità non paga, e invece la straordinarietà che paga, tenere pulito mai, nemmeno morti, però inventarsi la derassizzazione è gran figata. Detto questo ancora, se non ci fossero i topi in ogni città, e questo lo sa chiunque abbia approfondito un minimo l'argomento, la città letteralmente marcisce, perché tutto quello che di rifiuti va nelle fogne e negli scarichi, i topi se lo schifosamente se lo mangiano. Quindi mi raccomando, Marione, non farmi la cazzata di fare la campagna elettorale contro i topi, Che io faccio la campagna elettorale sull'ama, su questo roba. Ecco, sull'ama veramente, guarda, perché se uno studia un minimo i bilanci di AMA e i tassi di efficientamento di AMA sono davvero pazzeschi. Ma è questo che io mi dico, questi sono il dibattito che dovresti fare. Che c'entra la famiglia con l'AMA, con l'ATAC, col debito? No, la famiglia sull'AMA e l'ATAC c'entra, ecco, come hanno sistemato generazioni di famiglie. Famiglie allargate, ecco, famiglie estese, parenti fino al quindicesimo grado. Sono proprio bei nucleoni familiari incredibili. Poi, veramente, l'AMA è qualcosa che proprio... battute, il peso della tassa sui rifiuti che c'è sulle famiglie romane è un peso oggettivamente insostenibile se paragonato al livello di servizio. Sì. Questo è un elemento che va compreso, ma perché io famiglia devo versare una cifra così considerevole per avere poi la città persino nel centro storico, persino per tu passeggi a Largo Argentina dove hanno ucciso Giulio Cesare e arriva a una marea di turismo a guardare questi luoghi, lo troverai. Sì. Le persone che usano la torre argentina di Roma come vater, come vater anche per, diciamo, il rifiuto solido, vater. È molto difficile vederla in azione. Sì. Ora voglio dire, questo è l'elemento centrale di una campagna elettorale. Allora va bene, sono adesso... certo che su questo Rocchi dice perfettamente le cose giuste. Noi ci facciamo la campagna sulla questione spettacolare del topo e non ragioniamo sui miliardi di euro buttati delle famiglie romane in AMA. Vabbè, comunque una cosa da qui è uscita dal Parlamento. Viva i topi, insomma, la Carla Rocchi, viva i topi. Tra poco le chiederò anche se viva i piccioni. Abbasso l'AMA, l'apostrofo AMA, cioè la municipalizzata dei rifiuti, eccetera. Dai, andiamo al traffico, che poi devo capire. Ecco, esatto, Adinolfi cosa ci propone per il traffico e i piccioni, eh. Ovunque tu sei, ovunque tu andrai, davanti il traffico troverai. Roma vota la gente e la gente vuole Salvini. Milan, per Roma non ci vuole un sindaco, ci vuole il pifferaio magico. Milan, olio di ricino e manganello, unico rimedio per questo popolo di invertebrati, di pecore e conigli. Milan, Salvini quando parla non sa cosa dice, è l'uomo più ignorante che esista in Italia e purtroppo la Lega l'ha messa a quel posto. Omila, e sono il fiorentino, e stamattina sul giornale c'era un articolo che sconsigliano di venire in Toscana perché c'è questo problema della meningite. Però te col tuo staff di Radio 24 potete stare tranquilli perché la meningite piglia il cervello, ma voi vi piglia perché non ce l'avete. Ciao! Grande fiorentino, tutto in Toscana allora, tanto noi siamo immuni, autoimmuni. Grazie per l'invito, caro Fiorentino, lo accoglieremo presto. Abbiamo qui Mario Adinolfi, candidato sindaco di Roma con il popolo della famiglia, PDF. E abbiamo Carla Rocchi, presidente nazionale dell'EMPA. D'altronde io oggi intervisto su Libero Carlo Rienzi, caro Adinolfi, anche lui è Carlo Rienzi del CODA, con sé ufficiale, si candida e annuncia Libero, voglio candidare con me Francesco Totti, capisci che è la corsa più pazza del mondo, è una cosa non credo ci riesca, insomma, non credo che troverà. Non credo. La prima proposta è candidare Francesco Totti, è una proposta non realizzata. La seconda proposta del nostro avvocato Rienzi è: voglio candidarmi, diventare sindaco, senta qua Rocchi, per far fallire il comune, come prima cosa. Non si disturbi, voglio farlo fallire, così posso cacciare metà dei dipendenti e lo voteranno in massa, è una cosa santa, perché per esempio l'altro giorno leggevo che non so quale sconsiderato diceva: noi dipendenti comunali siamo troppo pochi, cioè sono decine di migliaia, non li trovi a uno sportello. Naturalmente ci sono le eccezioni, perché voglio dire, dopo infornate di raccomandati, qualcuno bravo ci sarà pure entrato per caso. Ma vi rendete conto? Cioè, poter dire che i dipendenti comunali sono pochi. Però è la gara più bella del mondo, quella di Roma. Sentite qui, Storace e Berlusconi. Allora iniziamo da Berlusconi. Quando Guido ed io andiamo all'Aquila, veniamo portati in giro come la Madonna. Verremo portati in giro come la Madonna e il Bambino Gesù. Dobbiamo decidere chi fa la Madonna e chi fa il Bambino Gesù. Ecco, Carla Rocchi, è solo una questione di mettersi d'accordo. Il commento sarebbe, la Madonna, ma come si fa a dire una roba di questo genere? Sentite invece Storace, se divento sindaco Storace, o ci ridanno i Marò, oppure... Voglio farvi una promessa, questa sì. Se sarò eletto sindaco di Roma, convocherò in Campidoglio l'ambasciatore dell'India e gli dirò che se entro 10 giorni non tornano in Italia, chiudiamo tutti i ristoranti indiani in città. Marione, manco indiano si può più. Marione, quasi quasi voto te. Prendo la cittadinanza, bravo, e voto questo, te, perché il panorama è questo. Questo è un pochino impressionante, no? Sì. Poi uno dice Porto Totti, quell'altro dice i ristoranti indiani. Qui c'è una città con 14 miliardi di euro di buco. Questa, sì, è la verità. Sì. Chiunque vinca avrà un lavoro disastroso da compiere, tant'è che sembra un gioco a perdere questa campagna elettorale di Roma, perché davvero pare... E di cose serie ne ho sentite davvero poche, oggettivamente ne ho sentite davvero poche. Il tentativo che noi facciamo è portare i numeri, questo è il nostro vizio da sempre, portiamo i numeri, guardiamo le cose, guardiamo i dati e troviamo soluzioni. Secondo me ci sono le condizioni per poter far ragionare questa città, evitando appunto cercarsi il titolino sul giornale, perché questo è il Marò e il ristorante indiano serve per cercarsi il titolino. No, ma è chiaro. Allora, questa roba non ha interesse, perché veramente una città operata da 14 miliardi di euro. Mai tra l'altro voglio ricordare, Rocchi, abbiamo 75.000 dipendenti comunali e delle municipalizzate che sono oggettivamente la dipendenza oggettivamente troppe, no? Sì, ma se ti candidi come Rienzi a dire voglio buttarne via metà, non so se ti voteranno. Infatti gli ho detto ma non so se la voteranno, e chi se ne frega, ma risposto candidato sindaco, vabbè. Rocchi, qui c'è la questione. Tra l'altro voglio annunciare alle 8.40 noi avremo ospite Virginia Raggi, candidata al Movimento 5 Stelle a Roma. Se vuoi ascoltarla, Marione, prima di andare a Radio Maria, fai te. Vabbè, Carla Rocchi, c'è da chiederle del piccione. Carlo Cracco ha fatto bene a cucinare il piccione. Ha vinto la lotteria di Merano, ma voi scherzate? Quando mai è andato sui giornali in questo modo? Quando mai tutto il mondo ha parlato di un ristorante, uno tra mille? Secondo me sto signore dovrebbe, prima cosa, andare a Lourdes e ringraziare. Seconda cosa, mettere un tavolo riservato per tutti quelli che hanno parlato o fatto parlare di lui e tenerli lì per un anno. Ma ha fatto bene o no? Cioè, è un criminale o no? Ha fatto quello che gli è sembrato, secondo me ha fatto malissimo. E dico perché c'è una ragione. Adesso si discute sul fatto che il piccione sia selvatico o domestico. Sì. Intanto apro una parentesi, tutti quelli che dicono il piccione porta le malattie, il piccione in uccello è schifoso, poi se lo vanno a mangiare, fanno un bel, mi dia un piatto di malattie con contorno di piselli. Questa è la prima osservazione, la gente è proprio schizzata. La seconda cosa è che dire che si cucina un piccione non è tanto un problema per il piccione che si cucina lì, ma perché la gente, magari gli viene in mente che se ne mangia uno di città, capito che voglio dire? No, questo no. No, che scherzate. Però ma cioè, ha commesso un reato o no? Perché questa è la questione. Non ha commesso un reato, secondo me, se può dimostrare che il piccione era d'allevamento, ma la questione è totalmente secondaria, perché questi adesso ormai, io sono convinta che... Guarda, sono convinta, no? Ma insomma, vista da fuori sembrerebbe proprio una cosa della serie, fammi un favore, vieni a denunciare. Però come si fa a dire? Vabbè, non si può sapere questo. Comunque, viva i topi, viva i piccioni, viva Mario Dinolfi che si candida a Roma, e ci sentiamo alla prossima, grazie. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it 1, 2, 3... Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Ah, che simpatici burloni questi ascoltatori nostri, eh? Alessandro, ti sei fatto male? Il GR ha detto che è caduto il Milan. Sono fatto molto male negli ultimi anni, tranquillo, caro ascoltatore. Sono anni che sono acciaccato. Allora, cari amici, la 149esima giornata e anzi anche settimana decisiva. Oggi non riesco a parlare, che vi devo dire? Se volete me ne vado, torno a dormire. La 149esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata ufficialmente.